Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. But the date, you a grand slammer, but you know Babe Ruth, you gotta learn how to relate. I've been swinging from the pearly gate. I got all the answers, and lo and behold, you got the right key, baby, but the wrong key. Eravamo un esercito in avanzata che stuprava e saccheggiava andando di città in città. Quando finisci un grande concerto non vai a giocare a bowling, non ti metti certo a fare la calzetta, ma bevi oppure assumi cocaina perché ti fanno stare bene. Se voi aveste qui un pulsante per azionare l'orgasmo, quanti di voi che stanno ascoltando premerebbero il pulsante tutto il giorno? Se c'è una cosa che il rock ha sempre detestato sono le mezze misure. Non è un fatto di moda o una qualche forma strana di snobismo, è più una questione di DNA. Vuoi passare una piacevole serata davanti a un camino con un buon libro in mano e un bicchiere di bourbon? Allora ascolta il jazz, oppure la musica classica. Devi fare un lungo viaggio e hai bisogno di un po' di compagnia di sottofondo? Allora puoi mettere del blues o magari qualche ballata tradizionale che ricorda il posto da cui provieni o quello dove stai andando. Sei a letto con una meravigliosa creatura? Beh, in questo caso ci vuole qualcosa di soft, di sussurrato, di lento. La musica ha soluzioni per tutti i gusti e tutte le necessità. Ma se quello che vuoi è la verità, quella vera, quella di tutti i giorni, con i suoi alti e bassi, i suoi profumi, il suo sudore, i suoi successi e i suoi fallimenti, allora c'è un solo modo per poterla ottenere. Una buona dose di rock duro. Il rock ha il bianco e il nero, è la somma di tutte le sensazioni più belle e dei buchi neri più profondi. Bisogna solo avere il coraggio di attraversarlo fino in fondo. La storia della musica è piena di rockers finiti male, salvi per un pelo, redenti dopo il passaggio a Dio o in una clinica, oppure buttati in un angolo insieme alla spazzatura. Non c'entra la dannazione o il desiderio di immolarsi, c'entrano il coraggio in parte e la follia. Il protagonista di oggi è uno a cui la spavalderia non è mai mancata, ma ha sempre dovuto fare i conti con il suo lato più insano, trascinandoselo di arena in arena, di stadio in stadio. È una delle voci più orgasmiche dell'hard rock. Mr. Steven Tyler, unico, inimitabile frontman degli Aerosmith. Hi, this is Steven Tyler of Aerosmith, and it must be snowing. Fuck you. I'm gonna kill you. Happy birthday, and Merry Christmas, and up the U.S. In fact, we are playing Canada next week. And another thing. Here we go. What a fucking hit. Steven Tyler nasce Steven Victor Tallarico, un nome che tradisce inequivocabili origini italiane, calabresi per la precisione. Ma quel che più importa è il luogo in cui viene alla luce. Si tratta di Yonkers, città dello stato di New York che confina con uno dei distretti più conosciuti della Grande Mela, più conosciuti e più temuti, il Bronx. Lo sai perché Joe DiMaggio era così grande? Perché era italiano? Beh, anche per questo. Allora perché? Perché aveva più talento di tutti gli altri. Talento? Esatto. Io ce l'ho il talento. Certo che hai talento. Hai tutto il talento del mondo. E potrei diventare un giocatore? Puoi diventare tutto quello che vuoi. Ricordati, la cosa più triste nella vita è il talento sprecato. Puoi avere tutto il talento del mondo, ma se non fai la cosa giusta non succede niente. Invece se ti comporti bene, dai retta a me, succedono grandi cose. Hai capito? Il Bronx che si dipana al lato di Yonkers e degli occhi di Steven non è il Bronx dei film come quello di Robert De Niro, in cui la durezza e le persone finiscono per annegare nel romanticismo. È molto di più. È strada, degrado, violenza, è droga. Ed è anche vita di tutti i giorni, dura, difficile, monotona, ma pur sempre vita. Steven a volte si diverte ad attraversarlo per respirarne a pieni polmoni l'atmosfera. A un certo punto ci andrà anche ad abitare. Si muove tanto perché è irrequieto il piccolo tallarico. I genitori se ne sono accorti subito. Ho iniziato a mettermi nei guai ancora prima di camminare. A 9 mesi ho ingoiato un penny. Me l'hanno tolto dallo stomaco e mia madre l'ha messo nell'album di famiglia. E poi ho mangiato una tazzina di formiche che mi ha portato nuovamente in ospedale. Oggi possiamo dire che ero iperattivo. A quel tempo ero un problema come bambino. Se c'è una cosa che Tyler ha mostrato fin da subito è la propria attitudine all'irrequietezza. E non è che quando è il momento di andare a scuola la propensione cambi. Anzi, Steven litiga con i compagni, alcuni proprio li terrorizza, con altri viene alle mani. E più in generale ha grossi problemi comportamentali, o per meglio dire di inserimento nel sistema. Non c'è ramanzino o provvedimento che tenga, è più forte di lui. E così la prima pietra necessaria per una vita all'insegna del rock è stata posata. Manca la seconda. Steve Tyler è cresciuto con la musica della British Invasion, band come i Rolling Stones, gli Yardbirds. Per quel che riguarda i Rolling Stones, ci andava matto. Lui si informava in quali posti avrebbero suonato e poi ci andava, si sedeva davanti e ascoltava tutta la sera. Aveva questo tipo di passione per la musica. Non c'era bisogno di un giornalista del Rolling Stone per capirlo, ma è bene essere chiari anche a costo di apparire banali. Al piccolo Steven piace la musica, e soprattutto un certo tipo di musica. La cosa apparentemente buffa è che non era costretto ad andare lontano per cercarsela. Il papà suona, il nonno suonava e la mamma la musica la insegna. Ma si sa, le scelte in questo campo si fanno da giovani e non si torna più indietro. E Tyler ha optato decisamente per il rock. Quale che sia la scelta, la febbre per la musica rimane sempre alta in casa Tallarico e Steven è ben contento di assorbirne le esalazioni. Una volta preso il virus tocca al passo successivo. Bisogna trovare uno strumento, il modo con cui sfogare i propri istinti, la propria inclinazione. Non è una scelta facile. Steve ha sempre avuto in testa quello che voleva fare. Voleva essere una rock star. Non voleva starsene dietro a suonare la batteria. Lui voleva stare davanti e ballare. E incitare la folla a imitarlo perché sapeva di avere quel potere. Questo è quello che dice Ray Tabano, primo chitarrista ufficiale degli Aerosmith, dal regno particolarmente breve. Giusto il tempo di tirare giù qualche riff e disegnare il logo storico che accompagnerà la band per tutta la carriera. Poi arriverà Brad Whitford e Ray diventerà pane per i biografi. Ma il punto è che rockstar o no, Steven non ha le idee così chiare. Perché sulle rive del lago Sunapee, dove d'estate si trasferisce con i suoi per gestire il locale dove suona il papà, prima si mette a suonare la chitarra, poi la batteria. È evidente che l'annebbiamento faccia parte del destino di questo irriverente ragazzo di Yonkers. Fatale fu quell'estate del 69. È in quell'anno, infatti, che la carriera di Steven trova la tanto agognata svolta. Prima c'è stata una serie interminabile di prove in altrettanti gruppi: The Strangers, Maniacs Up, The Chain, Fox Chase, per non parlare dei Vic Tallarico Orchestra, la band del padre. Tutti i tentativi, tutte urla disperate che si scagliano contro il sistema e verso il desiderio irrefrenabile e ossessivo di vivere una vita fuori dall'ordinario all'insegna della trasgressione e della provocazione. A questo si aggiungono quasi a rafforzarne l'intento la vodka, la marijuana e gli insulti degli altri ragazzi che si prendono gioco di lui. Tutto questo baccano frenetico dentro e fuori la testa di Steven troverà un modo di cessare nell'estate del 69. Siamo al lago Sunapee, al solito, come tutti gli anni. C'è un gruppo che si sta esibendo nei dintorni e sta riscuotendo un discreto successo. Si chiamano The Jam Band. Steven decide di andarli a sentire al Club Barn e nulla sarà più come prima. È stato il chitarrista a invitarlo. Un ragazzo che di giorno fa il cameriere all'Anchorage, dove Steven va ogni tanto a mangiare. Il ragazzo Si chiama Joe Perry. Sono cresciuto in questa piccola cittadina che si trova subito fuori Boston, non lontano da Foxborough. Mio padre faceva l'impiegato, era un ragioniere, mentre mia madre insegnava ginnastica alle scuole superiori. È stata un'infanzia piuttosto normale. Beh, questa sì che è una sorpresa. Delle due una: o Perry mente, oppure è vero che non esiste una logica nella lenta e inesorabile discesa verso l'inferno del rock. Joe e Steven sembrano crescere agli antipodi. Il tallarico è un ragazzino irrequieto, pieno di pruriti, sempre un passo dal baratro, sul cui bordo non perde il vizio di camminare. Perry invece, a sentire le sue parole, sembra più il bambino ordinato e con la riga da una parte, che se ne va a scuola con il grembiule e le matite colorate a disegnare maestre e case con i fiori. Eppure entrambi finiranno nello stesso tunnel. Proviamo ad andare avanti. Quando avevo circa 10-12 anni, i miei genitori mi regalarono una chitarra acustica e io cominciai a suonare le canzoni che sentivo alla radio. Poi vidi i Beatles e lì cominciai seriamente a pensare di formare una band. Neppure i gusti musicali sono gli stessi. Il timido Joe rimane affascinato dai Beatles, mentre Steven si scatena al ritmo degli odiati cugini Mick Jagger e Keith Richards. Ciò nonostante, quando i due si incontrano nell'estate del 69, scatta qualcosa. L'anno successivo, dopo l'ennesima band, i William Proud, Steven decide di mollare tutto, i tentativi, il lago Sunapee, lo stato di New York, per seguire Joe e gli altri componenti del gruppo a Boston, insieme a tutti i fantasmi e i deliri che lo accompagnano da quando è nato. Ci proveranno lì, nella patria Wasp. Unica richiesta, quella di cantare e fare il frontman, dopodiché che Aerosmith sia. La band abitava tutta insieme in questa casa vicino all'università di Boston e c'erano sempre feste, gente che entrava e usciva, c'erano donne piene di droga che la dividevano con altri musicisti spuntati da chissà dove e poi c'era qualche spacciatore naturalmente. Insomma, fin dall'inizio la storia degli Aerosmith è stata caratterizzata dalla droga. I giornalisti amano sempre esagerare, ma anche gli Aerosmith non scherzano. Quando hanno deciso di provare a sfondare e a diventare una band importante, si sono caricati sulle spalle tutto il necessario e la droga nella musica ha proprio l'aria del documento imprescindibile, soprattutto a quei tempi. Che strano, in qualsiasi altro ambiente, lo sport per esempio, gli stupefacenti sono banditi e banditi diventano coloro che ne fanno uso. Nell'arte invece, nella musica specialmente, diventano una sorta di vizio accettabile, se non uno strumento per rafforzare la propria ribellione, il proprio asistemico stile di vita, il proprio talento. Un modo per aprire scenari e pigiare sull'acceleratore. Tanto nessuno ti farà l'antidoping alla fine del concerto. Gli Aerosmith, nei primi anni 70, sembrano in ogni caso sufficientemente lucidi. Ci mettono dedizione e tempo e Steven sembra funzionare davanti al microfono. Ci provano, insomma, anche se dura. È un periodo in cui, se va bene, a fine serata ognuno si trova in tasca 20 centesimi in più. È la gavetta. Ci sono voluti anni prima di avere la sensazione che stavamo davvero sfondando. C'è stato in effetti un segnale. Un giorno stavamo tornando a Boston dopo una serata, il nostro singolo era in giro da un po' di tempo, e per la prima volta ci accorgemmo che ad attenderci non c'erano solo gli amici, ma c'erano anche dei fan. Chissà che faccia hanno fatto quando di ritorno dal concerto hanno trovato tutta quella gente mai vista prima. Magari hanno pensato a una mega festa o a una mega retata. In ogni caso la fama che comincia a manifestarsi è senza dubbio meritata, perché, droga o no, il gruppo ci sa fare. Steven sfoggia una voce roca, tagliente, molto particolare, ideale sia per le ballate che per i pezzi più duri, a cui si unisce un'innata capacità di coinvolgimento del pubblico. Joe, dal canto suo, mette tutta la sapienza delle sue mani in accordi distorti e trascinanti. Il resto della band segue e il suono che ne esce si imprime nella testa degli ascoltatori. Avevano questa compattezza sul palco, sembravano una band rock inglese. Avevano questi capelli lunghissimi che all'epoca facevano scalpore e soprattutto avevano grinta. Il metodo Aerosmith per il successo è un mix di elementi irriproducibili nel senso più assoluto. Tutto comincia da un'idea che passa dalla testa di Steven alle mani di Joe, per poi tornare al cantante e via verso il resto della band. Lo stesso Steven, poi, in quanto ex batterista ed ex chitarrista, si intrufola in tutti gli strumenti in maniera quasi maniacale per fondere il tutto. In mezzo ci sono alcolici, spinelli, feste e quant'altro. E la ricetta, che ci crediate o no, funziona. Il destino di Steven e Joe, pur rimanendo magnifico, non tarda a mostrare le prime crepe. Viene fuori fin da subito, infatti, che il loro legame non si limiterà a sintonie e a talento. Al contrario, dovrà fare i conti con dissapori e violenti scontri. C'è la volta in cui Steven, durante l'esibizione, si lamenta del volume troppo alto di Joe. Oppure è il chitarrista a riprendere Tyler perché è troppo fatto e sta esagerando sul palco. Quasi sempre i volumi delle discussioni sono molto vicini alla spia rossa. La situazione non precipita, ma è evidente che l'equilibrio dei due, quindi del gruppo, si trova costantemente su una graticola. L'unica certezza per ora è la musica. Gli Aerosmith ci danno dentro e finalmente vengono notati. Clive, il manager della Columbia, una sera ci venne a vedere. Rimase molto impressionato dal nostro show. Mi ricordo che a fine serata ci prese da parte, mise le braccia attorno al collo di Steven e gli disse: «Tu diventerai una grande star». Quello che Clive Davis si dimentica di dire, o che forse Joe non è riuscito a udire, è che ci vorrà ancora un po' di tempo. I primi due album della band infatti non sfondano e spingono la Columbia fin quasi a rimangiarsi l'impegno preso di produrli. La musica c'è, le idee pure, ma manca la costanza. Che potrebbe arrivare prima o poi, ma c'è un altro fattore che latita, il pubblico. I fan sono lo zoccolo duro del rock ed è una delle parti migliori, ma bisogna saperseli conquistare. Ecco perché Tyler, Perry e gli altri a un certo punto decidono di buttarsi in un lungo tour attraverso le strade dell'America per andarsi a prendere quello che gli spetta. Abbiamo suonato in ogni posto e ogni notte che abbiamo potuto. Mi ricordo che qualche volta è capitato di suonare anche due volte nello stesso giorno. Ci esibivamo in qualche college festival all'aperto la sera per poi ripeterci a notte fonda in un club. Steven naturalmente ha un'idea tutta sua di quel lungo tour che si prolungherà anche dopo il successo. Un'idea molto personale. Se non fosse stato per la cocaina, non credo che la band sarebbe riuscita a girare tutti gli stati dell'America 9 volte in 7 anni. Perché non c'era MTV a quei tempi. Quindi ci siamo rimboccati le maniche e messi in marcia con orgoglio. Era tipo: avanti, qual è la prossima tappa? Dammi un po' di... E quindi... è così, insomma. Guarda, quello sta ridendo. Ehi, l'hanno finita anche lì. Aiuto o non aiuto, l'idea funziona, perché nel bel mezzo di quel lungo peregrinare il gruppo sforna due album, Toys in the Attic e Rocks, che si riveleranno due autentiche perle dell'hard rock, mettendo d'accordo critica e ascoltatori. Gli Aerosmith finalmente irrompono nelle zone alte delle classifiche grazie a un sound potente e a canzoni avvolgenti. Trascinano la folla con la loro esuberanza e al pubblico fedele conquistato durante il loro girovagare si aggiunge presto una nuova schiera di fan che si innamorano dei loro dischi. È la svolta verso il paradiso. In mezzo a feste, ragazze, bottiglie, banconote distese e banconote arrotolate, prende forma il sogno del giovane Steven Victor Tallarico con i suoi eccessi e le sue imprevedibilità. È la vita da rockstar che aveva sempre avuto in mente. Ma si sa, dai sogni ci si deve prima o poi svegliare. E quando ci si prova ad alzare, nella testa si avvertono tutte le pesantezze dei bagordi della sera prima. I magnifici destini. Durante i nostri primi successi chiedevamo di essere pagati in tagli piccoli che ci divertivamo a lanciare in aria per festeggiare. Era divertente. A un certo punto tutto cominciò a gonfiarsi e passammo dai $300 a 3.000. Era davvero tanto denaro, troppo per portarselo tutto dietro, e così lo mettemmo dentro a un camion. Ma alla stessa velocità in cui arrivarono e poi si volatilizzarono. I magnifici destini è ancora seduto dentro l'imprevedibile giostra del rock, con le cinture allacciate a causa dei continui e vertiginosi sali scendi. Steven Tyler è riuscito a realizzare ciò che desiderava, e cioè a diventare una rockstar e a consumarne ogni vizio, dal più piccolo al più grande. Insieme al suo chitarrista Joe Perry e al resto della band, è riuscito a scalare le pareti lisce dell'Olimpo in seguito grazie ai due album Toys in the Attic e Rocks, a diventare la realtà più importante dell'hard rock. Siamo a metà anni 70 e dopo una vita passata per strada nei piccoli club e nei festival, ora gli Aerosmith riescono a riempire stadi come il Silverdome a Pontiac in Michigan, dove 80.000 persone vanno in delirio per l'esibizione di Steven e compagni. Il loro mondo comincia ad allargarsi a dismisura, mentre la musica non smette di picchiare duro. Col passare del tempo, la faccenda si fa sempre più complicata da gestire. Tutto quello che gira intorno a Steven e alla sua band piano piano perde sempre più contatto con la realtà. Loro stessi sono i primi, colpa della droga, colpa dello star system. È come se fossero fattori che giocano contro invece che a favore, togliendo ispirazione e lucidità. Quella poca lucidità che aveva permesso loro di emergere. Durante le registrazioni di Toys in the Attic, un giorno, Steven si dimentica sul taxi tutti i testi delle canzoni. E cosa decide di fare? Si chiude in sala per ascoltare i riff di Joe e, munito di un rossetto, scrive sui muri in presa diretta quello che gli viene in mente. L'album diventa una specie di saggio di come gli Aerosmith vedono e sentono il rock, ma questa magia, a un certo punto, sparisce. C'è troppa roba che gira intorno ed è risaputo. Qualunque cosa sia stata gonfiata è più vicina per sua natura all'esplosione. Ho detto a me stesso, basta, ora la finisco. Se non hai più, non hai più. È chiaro, ho pianto, ho pensato Dio. È giusto così? È veramente finita? Finita da non vederla più? E allora pensavo, forse lo è. Forse ce la faccio. E nel momento in cui pensavo questo, qualcosa mi diceva, no, non lo è affatto. Nessuno, neppure il più duro dei duri, può sconfiggere la droga da solo. È una lotta troppo impari. E certamente il risultato è scontato anche per Steven e per il suo amico Joe. Nel giro ora sono diventati per tutti i Toxic Twins, i gemelli tossici. La loro alchimia musicale, evidentemente, ne trae in qualche modo beneficio, ma il loro rapporto decisamente no. Nella seconda metà degli anni 70, i litigi e le violente discussioni si fanno sempre più frequenti e i due sembrano ogni giorno più lontani. Si ignorano, si parlano solo attraverso le urla durante i loro concerti, persino le fidanzate si mettono in mezzo. Sono due persone strane, Steven e Joe, entrambi molto egocentrici, molto dannati, ma in modo diverso. Più estroverso il primo, che mostra esuberanza ma tiene cuore italiano, più timido il secondo, con il fuoco sacro del rock che brucia dentro. Una sera del 79 a Cleveland va in scena il finale più scontato. Ennesimo litigio dentro l'ennesima botta di cocaina. E in un attimo tutto finisce. Joe se ne va, chiude la porta. Gli Aerosmith non ci sono più. In quel pranzo ci fu, diciamo, un po' di nostalgia dei vecchi tempi, come è normale che sia. E poi ci furono tante lamentele. Finché a un certo punto io non dissi, ragazzi, proviamo a parlare un po' del futuro e lasciamo stare il passato. Steven mi guardò e poi disse, hai ragione, penso che sia arrivato il momento, Joe. E Joe, lo penso anch'io. Di lì ricominciò tutto. La voce appartiene a Tim Collins, manager barbuto e cicciottello con un gran senso del pratico. Tim incrocia prima il destino di Joe Perry, affiancandolo come manager durante il periodo in cui tenta la carriera solista dopo il violento distacco dal gruppo. Poi, una volta capita la situazione, si rivolge a Steven, lavorandolo ai fianchi per progettare un incontro con l'ex collega. È un lavoro di fino quello che fa Collins, spinto dall'evidenza che circonda Tyler e Perry. Senza l'altro, la magia è sparita, è rimasta solo la droga. A nulla è servito il tentativo di Steven di trovare un altro chitarrista, e il discorso vale anche per Perry, alle prese con un progetto da solista che non decolla. Così il periodo dal 79 al 1984 diventa una specie di intervallo buio senza rumori, gli Aerosmith sono precipitati nel baratro. Poi le riflessioni, il pranzo e la decisione. Ma non basta a rimettere le cose a posto. Manca ancora un elemento. Yeah, yeah, yeah. Two turntables and a microphone. That's all it took to change the world. Three kings from Queens made rap music in the b-boy stance a global phenomenon. Joseph Simmons, Daryl McDaniels, and Jason Mizell dubbed themselves the Kings of Rock, better known as Run-DMC. Certo, entrare nella Rock and Roll Hall of Fame con il discorso di presentazione fatto da Eminem non è male. Significa che qualcosa di buono lo hai fatto in carriera. E in effetti, i Run DMC al secolo Joseph Run Simmons, Daniel DMC McDaniel e Jam Master Jay, alias Jason Mizell, hanno lasciato il segno. Hanno sicuramente dato lustro all'hip hop, sdoganandolo alla massa, e in più ci hanno messo la loro firma, con tutti quei riff di chitarra un po' rocchettari. Noi facciamo solo quello che ci piace fare. Di solito quello che piace a noi piace anche a tanta altra gente. Quindi qualunque cosa ci viene in mente di fare, dobbiamo solo farla nel modo migliore. A noi basta così e siamo contenti così. Già si intuisce il perché questi ragazzi neri potrebbero andare d'accordo con Steven e soci. Hanno la stessa disarmante sicurezza e semplicità. Chi se ne importa della critica, dei colleghi, del giusto e dello sbagliato? L'importante è fare ciò che riesce meglio. Deve essere per questo che Tim Collins ci ha messo gli occhi sopra, perché gli Aerosmith sono tornati insieme, sì, ma fanno fatica a trovare l'ispirazione, perché i tempi sono cambiati e la concorrenza si fa sempre più spietata. E forse anche perché un bravo manager è un bravo manager. Fatto sta che viene sull'idea di mettere insieme Steven, il resto della ciurma e questi tre ragazzotti di colore. Il risultato sarà sorprendente. C'era già Walk This Way nel repertorio degli Aerosmith. Era in Toys in the Attic. Ma questa è un'altra cosa, una genialata, un colpo di coda, una perla, chiamatela come vi pare. Resta il fatto che il singolo spacca, come dice qualcuno, e invade il mondo. Il fatto è che mischia bene i due generi. Da un lato il rap ritmato e a più voci dei Run-DMC. Dall'altra il groove degli Aerosmith, che non molla mai. Persino una voce scomoda come quella di Steven riesce ad amalgamarsi. La canzone trascina il gruppo di Tyler fuori dalle sabbie mobili da cui stavano cercando di liberarsi e riesce nel tentativo di dare nuova linfa alla loro carriera. E così, senza che nessuno se lo aspettasse, i Run DMC si tolgono lo sfizio di segnare il destino di Steven in modo decisamente magnifico. È stato divertente. Sento spesso gente che la canticchia. Anche se eravamo un po' timorosi, temevamo che la gente abituata a sentirci con uno stile più hardcore potesse giudicarla una cavolata. Ma alla fine è stato divertente. È come se avessimo abbattuto dei muri. È grandioso quando lo rivedi. E se non ti piace, significa che hai qualche problema. Il miracolo di Walk This Way non si limita al suono, ma include anche il video. Sì, perché dal 1 agosto 1981 la musica ha ampliato le sue vedute grazie a un nuovo contenitore che diffonde immagini e non solo accordi. Si chiama MTV e diventa presto una realtà con cui i musicisti si devono confrontare. Il videoclip si trasforma da risorsa a necessità, a passaggio obbligatorio. E così il muro abbattuto da Tyler e Perry, il cui squarcio permette ai due di unirsi ai Run DMC, diventa presto un cult, grazie al potente messaggio evocativo. Rap e rock si uniscono. Dio benedica la musica, forse è un miracolo, o forse no. Ci vuole tempo perché una persona con una dipendenza capisca che sta andando a fondo. È dura smettere perché ti piace. Nonostante i nostri alti e bassi, siamo di nuovo in pista. Loving it and loving it up, living it up when I'm going down. Loving it. Il magnifico ruolo di Run DMC nella vita di Steve Tyler e soci inizia e termina con Walk This Way, un vero e proprio capolavoro, un'operazione condotta in maniera talmente perfetta da fare invidia a James Bond. Tim Collins, invece, deve al momento rimandare i festeggiamenti. Per lui c'è ancora da lavorare. Pur avendo contribuito a uno dei più incredibili rilanci della storia della musica, si trova a dover superare insieme a Steven la prova più difficile, la vittoria sul demone, la cacciata del diavolo, la sconfitta del nemico più potente e più imprevedibile, la droga, gli eccessi, l'alcol. Ci vorrà ancora tempo, perché ormai lo abbiamo capito, non basta una battaglia, bisogna vincere la guerra. La musica è tornata, così come l'ispirazione e l'applauso indispensabile dei fan di cui si nutre ogni singola rockstar. Ma ci vuole qualcosa in più se non si vuole rischiare di lasciare il filo del destino legato a una polvere o a una bottiglia di vetro. Avete guadagnato tanti soldi? Sì. Avete tirato su così tanti soldi? Sì, certamente. Milioni. Lo avete fatto davvero? Sì. E dove sono adesso? Sono dentro il mio naso. Mi sono tirato su l'intero Perù. Sopravvivere agli anni 70 è stato un vero miracolo. Pensi che saresti potuto morire? Beh, lo sono stato un sacco di volte. It's my new obsession. Yeah, pink, it's not even a question. Pink on the lips of your lover. Cause pink is the love you discover. I magnifici destini è ancora incastrato dentro la banconota arrotolata attraverso cui Steven Tyler sta aspirando ogni più piccolo grammo di successo. Gli Aerosmith sono tornati dopo aver toccato il fondo, grazie all'impegno del manager Tim Collins e il ritorno del vecchio amico Joe Perry, il gemello tossico di Tyler. Dopo il grande successo di Walk This Way, la band ha ritrovato anima e accordi ed è stata capace di rinnovarsi senza stravolgersi, grazie a qualche piccolo accorgimento. Lo sfruttamento del videoclip, in primis, la nuova forma d'arte che ha cambiato la storia della musica, dando la possibilità a band e interpreti di ampliare la loro offerta, unendo immagini e idee al servizio delle loro creazioni. Gli Aerosmith riusciranno nell'intento di sfornare video sempre intriganti e in linea con il loro stile. Ed è proprio lo stile, l'altra colonna portante che viene ritarata. Steven e soci non si allontanano dal loro genere, semplicemente lo integrano con un tocco di glam e qualche piccola concessione alla melodia, che gli consente una diffusione più trasversale. Ora Steven è una rockstar a tutto tondo. Nella seconda metà degli anni Ottanta, Steven sembra vivere una seconda giovinezza. Le sue performance sul palco sono sempre cariche, molto cariche, di energia e spettacolo. C'è l'immancabile foulard arrotolato attorno all'asta del microfono e quella sua incredibile sterminata bocca, da cui fuoriesce un canto graffiante, duro e sensuale. C'è da ballare e intrattenere il pubblico e poi da andare da Joe per stimolarlo mentre è alle prese con i suoi assoli e poi basso e batteria che pompano incessantemente il ritmo. Escono Permanent Vacation e Pump, quest'ultimo soprattutto una delle migliori creature della band, ma c'è anche il solito vecchio vizio cui non riesce a rinunciare. La droga li faceva completamente ammattire, diventavano fuori controllo, infatti dovetti assumere della gente per tenere lontani da loro gli spacciatori e tutti i vecchi amici che gli giravano intorno. C'erano armi e agenti di sicurezza, ma era necessario, fondamentalmente, per tenerli in vita. È il compito finale di Tim, quello più difficile, quello più duro, spazzare via tutta la polvere che circonda Steven. È una cosa su cui riflette da tempo e più va avanti più diventa impellente, altrimenti si rischia di rovinare di nuovo tutto, e non solo la carriera. Tyler potrebbe di nuovo stramazzare al suolo durante un concerto, come è capitato più di una volta, e magari non alzarsi più. Per farlo non c'è che una possibilità: togliere la droga non solo a lui, ma anche a tutti gli altri. Parlai con Steve, ma dentro di me già sapevo che qualcosa doveva cambiare. La mia fidanzata era incinta ed era vicina al nono mese. Così mi sono detto, va bene, smetterò non appena mio figlio sarà nato, perché voglio essere lucido quando ci sarà. L'operazione pulizia prende il via e, udite udite, funziona. Vengono coinvolti tutti, anche Joe, come lui ricorda, e lo stesso Tim, che non era ai livelli degli altri, ma c'era dentro pure lui. Steven finisce in una delle tante cliniche che portano nomi famosi, al cui ingresso c'è una porta girevole che accoglie divi che vanno e vengono di continuo. Ci mette un po', ma alla fine in qualche modo ce la fa. Sai, non lo sai mai per certo. Tu, io i miei programmi, tutti gli amici intorno a me sono puliti. La verità è che, sai, è il tuo nodo cruciale. Ascoltare musica e sentirsi gasati in alcune circostanze non è così diverso da essere sotto botta. È la stessa cosa. Ed è il motivo per cui è così pericoloso per me. Io non posso tornare indietro a quei tempi. Posso sentirmi gasato sul palco, qui adesso rispondere. Il mio cuore batte. Qua c'è un bel po' di gente. Questo è quello per cui vivo oggi. Vedi, non lo sai mai per certo. Io seguo i miei programmi. E spero. Cerco di avere fiducia. La redenzione di Steven manca solo di un ultimo tassello, l'ispirazione. Dopo aver attraversato le innumerevoli paludi che caratterizzano il territorio rock ed esserne uscito vivo e con un posto nella storia della musica, a Tyler non resta che trovare un figliol prodigo cui affidare tutta l'esperienza di una vita vissuta con il piede sull'acceleratore. Il simbolico passaggio avviene nel 1987, quando sul palco del tour degli Aerosmith, quattro scatenati, armati di capelli lunghi e canottiere, infiammano il pubblico in attesa dei suoi eroi, sfoggiando un repertorio duro e deciso. Sono i Guns N' Roses. A vedere bene, ci sono tante somiglianze. Axl Rose e Slash ricordano Steven e Joe per tanti motivi, per l'impatto che hanno sulla band, per la vita di eccessi che conducono, per la voce rotta e le schitarrate violente che esibiscono. E poi anche il loro rock è duro. In effetti la fama non tarderà ad arrivare, ma qualche anno più tardi i Guns si divideranno e per loro niente comeback. È uno dei pericoli che corri se vuoi essere una rockstar con tutti gli annessi. Gli Aerosmith non hanno smesso di suonare il rock. Sono ancora lì dopo 40 anni di carriera. E nonostante alcuni inevitabili scivoloni, la loro musica è rimasta potente e unica. Sia che si tratti delle loro ballate, sia che si tratti di un ritmo veloce tutto cassa e distorsioni. È rimasto quasi tutto come prima, con la sola differenza che fa il tempo che trascorre e rosicchia le membra. Steven a un certo punto è persino diventato giudice del reality American Idol, che negli Stati Uniti ha un grande successo, mollando la band per poi ritornarci insieme, come ai vecchi tempi. E come ai vecchi tempi, la mano sul fuoco che abbia posto fine a certi vizi non la metteresti. Ma questo non ha più alcuna importanza ormai. Steven Tyler, oggi, ha più di 60 anni ed è ancora una rockstar come aveva desiderato. In faccia si porta tutti i segni che gli ha lasciato questo tipo di vita. Se lo vedi, se lo fissi per un attimo, fa quasi tenerezza, almeno finché non comincia a cantare e a suonare con gli Aerosmith.